Buongiorno. Ah, che bello. Sono stato in una chiesa che avevo salutato tutti, non mi salutava nessuno, non so. Come state? Tutto bene? Siamo troppo felici che oggi ci sono questi tre che si battezzano. Facciamo un applauso. È una gioia immensa, perché siete testimonianza di una vita nuova. Gesù è per tutti. Avete visto all'ingresso, forse c'era. Adesso l'hanno cambiato, però c'era un manifesto che diceva proprio questo: Gesù è per tutti. Sì? Abbiamo visto durante l'anno quanta esperienza abbiamo vissuto come Chiesa su questo ambito. E in realtà questa settimana io ho avuto un'esperienza molto bella che ha aperto una nuova frontiera su questo principio, no? Su questo raggiungere le persone, perché Gesù è veramente un dono per tutti ed è una speranza per tutti. In breve, praticamente, qualcuno di voi riceve telefonate dei call center? Sì? Vedo diversi, già inizia. Allora, io ne ricevo diverse e ce n'è uno in particolare che cerca di vendermi degli investimenti da fare di trading online, no? Queste cose qua. Qualcuno sa cos'è? Io non lo so, quindi. È successo che praticamente questa persona stava cercando di convincermi su questo, mi parlava di questo, ma io ovviamente volevo dirglielo proprio esplicitamente: signorina, mi scusi, ma proprio non ci sono i soldi da investire, non è che non vorrei, però potrebbe essere che un problema anche questo. Ma la signorina insisteva tantissimo e diceva: ma guarda, i miei genitori mi hanno insegnato che quando si parla di soldi è importante che noi siamo attenti a queste proposte. E io gli dicevo: forse non è l'unica cosa importante nella vita. E lei mi ha detto: ma cosa c'è di più importante dei soldi? E io lì ho detto: ok, qui apro la frontiera nuova Gesù per tutti. Gesù è la cosa più importante della mia vita. E ti spiego perché. Perché ha portato speranza nella mia vita, mi ha dato una nuova possibilità, mi ha dato un nuovo inizio. E dopo un po' che parlavamo, lei ha detto: ma io quando torno a casa voglio pregare per mio marito, voglio pregare per il mio lavoro, voglio che tutto questo cambi. E ha detto: ah, ecco, finalmente. E allora ho chiuso la telefonata con una frase famosa di Gesù che dice: signorina, va e non telefonare più. Gesù è per tutti. Gesù è per tutti perché leggiamo una storia insieme che parla proprio di un incontro speciale. Perché ogni volta che noi ci raduniamo abbiamo un incontro bellissimo con Dio. E Gesù, quando è stato qui sulla terra, ha fatto degli appuntamenti speciali, ma veramente bellissimi, che hanno scritto la storia di quelle persone, ma in realtà hanno influenzato la vita di tantissime persone in più, come noi qui. C'è una storia che parla ancora oggi di un incontro bellissimo, che è di Gesù con Nicodemo. Qualcuno sa chi è Nicodemo? Sì, qualcuno sì. Però rinfreschiamo un po' la memoria e leggiamo insieme questo passaggio della Bibbia che si trova nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 3. Volete leggerlo insieme a me? In tre hanno detto sì. Ragazzi, datemi una mano, vi prego. Cerchiamo di leggerlo insieme. Su. Allora, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi, dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, che vuol dire maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ora Nicodemo gli disse: come può, scusami tanto Gesù, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù gli rispose: che pazienza Gesù, ma no, male. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto che bisogna che nasciate di nuovo. Ora il vento soffia dove vuole, tu non odi il rumore, non sai da dove, non sai né da dove viene e né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: ma scusa, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. In verità, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Possiamo dire amen forte qui, amen. Infatti Dio ha mandato suo figlio nel mondo, non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Siamo molto concentrati sul verso di Giovanni 3,16. Quanti conoscono quel verso a memoria? Molti. Però in realtà questa storia ci parla di come Gesù è arrivato a dire questa frase così determinante per il destino dell'umanità intera, non solo per la vita di Nicodemo. E in realtà noi possiamo imparare qualcosa da questa storia. Innanzitutto cerchiamo di conoscere anche i personaggi che ci sono in questa storia. Parliamo di Nicodemo. Ora, Nicodemo, che cosa sappiamo di Nicodemo? Almeno tre cose. Sicuramente sappiamo che lui era maestro di Israele. Ora, io non so esattamente proprio la qualifica, che cosa significa questo, però sicuramente era una persona molto rispettabile, che conosceva la parola di Dio, conosceva bene quello che era scritto nella Bibbia, e sicuramente era una persona anche molto benestante, molto ricca, era una persona con uno status sociale molto importante. Sappiamo un'altra cosa, che era fariseo. Quando ti dicono fariseo, cioè a quel tempo era una cosa importante, perché tu eri colui che deteneva proprio il significato dell'etica, della morale, una religiosità molto minuziosa che doveva portare le persone a vivere pienamente il significato della legge, cioè dei comandamenti della legge che erano scritti nella parola. E poi sappiamo, perché siccome faceva già poche cose, un'altra cosa la doveva pure fare, ed era membro del Sinedrio. Che cos'era il Sinedrio? Un tribunale. È un tribunale, il più alto tribunale religioso, quindi una specie di Cassazione, no? O se volete una Santa Inquisizione. In qualche modo era veramente una persona molto, molto in vista. Che cosa è successo prima di questo incontro? È successo che Gesù si trovava a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua. E in quei giorni era praticamente successo un subbuglio a Gerusalemme, perché Gesù aveva incontrato un sacco di persone, aveva iniziato a guarire della gente. E Gesù era veramente l'uomo dell'anno, cioè quel giorno tutti sapevano chi era Gesù che veniva dalla Galilea, e c'era chi lo accettava e c'era chi lo disprezzava. In ogni caso era diventato proprio famoso, cioè tutte le storie di Instagram erano per lui, tutte. E quindi Nicodemo era uno che aveva studiato, uno che sapeva come funzionavano le cose. Sapete, una delle cose che più era in testa a Nicodemo era proprio questa cosa, che dice: lui, Gesù, viene in questa città, la nostra città, dove tutto funziona bene, arriva lui e succede di tutto. Ora, perché sono successe tutte queste cose? Soprattutto lui, forse non lo percepiamo bene, ma lui proprio ci restava male, voleva capire: ma perché sono successi tutti questi miracoli? Noi siamo qui che da centinaia di anni che portiamo avanti la parola di Dio e poi non succede mai niente, invece arriva lui che non ha studiato, non ha il master, non ha fatto l'università che ho fatto io, diceva Nicodemo, e viene lui e succede tutto questo. Nicodemo è molto, molto diviso, è molto combattuto, e per quanto questo sia un aspetto critico di quello che Nicodemo stava pensando in quel momento, io voglio spezzare una lancia in favore di Nicodemo, perché Nicodemo non rimane nei suoi dubbi, non rimane nel suo cruccio, ma si prende la briga di andare ad incontrare quest'uomo e gli dice: senti, io voglio proprio capire come stanno queste cose. Quindi va proprio ad incontrare Gesù dopo che è successo tutto questo, no? Che c'era stata la Pasqua, eccetera. E sapete quando va ad incontrarlo? Quando la festa è finita, tutte le persone stanno tornando a casa, e Gesù forse era pure stanco, lui arriva di sera tardi, anzi no, dice di notte. Cioè di notte, io non so se ti arriva qualcuno alle 11:30 di sera e dice: senti, magari ci vediamo domani, no? Perché sei un po' stanco, eccetera. Ma invece Gesù lo accoglie. Ora noi vediamo queste due posizioni già è molto curioso, perché c'è Nicodemo che vuole togliersi proprio il sassolino dalla scarpa, vuole capire come stanno veramente le cose, e Gesù che conosceva già Nicodemo, perché chiaramente lui è Dio, sapeva molto bene che quell'incontro sarebbe stato determinante per la sua vita, in realtà è stato determinante pure per la mia e forse per molti di noi. E succede questo, che alla fine Gesù accetta di incontrare Nicodemo. Ora io non lo so che cosa è successo, però immagino che Nicodemo non voleva fare brutta figura con gli amici farisei o con i membri del Sinedrio. Cioè sicuramente se avessero scoperto che lui si fosse recato da Gesù, gli avrebbero detto: "Ne, e che succede? Questo qua adesso no, non va bene, no?" E ci sono dei sentimenti molto contrastanti. Però anche qui Nicodemo, anche se è andato di notte, è andato da Gesù. Si è sfidato, ha detto: ma io voglio proprio capire come stanno le cose. E inizia questa bellissima conversazione che abbiamo letto insieme, no? Io credo che davvero Nicodemo voleva fare la cosa migliore. E io credo che anche qui già qualcosa la possiamo imparare da Nicodemo, perché quando lui è andato e si è sfidato e ha voluto incontrare Gesù, secondo me questa è una cosa buona che possiamo fare pure noi. Quando noi non capiamo, è molto buono che andiamo da Gesù. Sì? È molto importante che entriamo in discussione, andiamo da Gesù e gli diciamo: ho bisogno di capire, ho bisogno di sapere. E lui non ha scelto di andare dai discepoli, gli amici di Gesù, non è andato a chiedere agli altri amici farisei che gli avrebbero dato sicuramente un punto di vista differente, è andato alla fonte per comprendere bene che cosa c'era da capire di questo Gesù di cui tutti parlano. E allora inizia questa conversazione e lui, siccome è una persona molto educata, Nicodemo, la prima cosa che dice è: senti, caro Gesù, io ho capito che ci sono molti miracoli che sono avvenuti e io so, perché ho studiato, che se ci sono dei miracoli evidentemente tu sei da parte di Dio. Cioè, in qualche modo l'ha salutato per bene e gli ha detto: ma io ho capito che, insomma, c'è del valore in quello che dici e in quello che fai, perché si vede, no? È evidente che ci sono dei miracoli. Allora, se io fossi stato Gesù, io avrei detto: possiamo chiamare Nicò, più confidenziale, Nicodemo, Nicò, senti, lo so, grazie, guarda che non hai ancora visto niente. Perché guarda che ci saranno cose anche più belle di queste che hai visto finora. E lì saremmo stati lì a vantarci con Nicodemo, che era un dottore della legge, un fariseo. Invece Gesù proprio lo spiazza completamente e gli risponde: Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo ha detto: scusa, capisco che tu sei da parte di Dio e tu mi rispondi in un altro modo. Illogico per Nicodemo. Qui stiamo parlando di due persone, due livelli differenti di comunicazione, due logiche diverse, la logica di Nicodemo e la logica di Gesù. Ora, per entrambi, ognuno era illogico per l'altro, ma soprattutto Nicodemo era già in supercrisi per dire: scusa, ma che cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che io devo, cioè, mi stai parlando di una nuova nascita, ma che devo nascere di nuovo perché non posso vedere il regno di Dio? Gesù, guarda che io ho studiato, perché questa era la certezza di Nicodemo. Nicodemo era totalmente formato nelle cose che conosceva e ha detto: senti Gesù, io ho ben chiaro le cose come stanno e io so che cosa significa vedere il regno di Dio e vedere Dio, perché solo se faccio bene le cose che conosco, allora io vedrò Dio. E invece Gesù lo sta spiazzando, gli dice: guarda che tu hai bisogno di una nuova nascita. In poche parole, Nicodemo sta dicendo a Gesù: dove ci sono miracoli, io vedo che c'è Dio. E Gesù gli sta rispondendo: Nicodemo, dove c'è Dio, c'è un miracolo per te. C'è un miracolo per la tua vita. C'è un miracolo che può darti una vita nuova. Tu non puoi capire come avvengono i miracoli, ma io ti posso spiegare che se c'è Dio, Dio porta vita e vita miracolosa. Non cercare di capire come funzionano i miracoli, perché non è questo il punto. Allora Nicodemo incalza ancora questa conversazione e qui, siccome lui si è sentito un po' ferito nell'orgoglio perché gli è stato risposto in una maniera così strana, gli dice: ma scusa Gesù, io non ho compreso bene, e usa questa ironia anche molto fastidiosa, dice: scusa, come potrei io rinascere di nuovo? Cosa faccio? Entro di nuovo nella pancia di mamma e poi nasco di nuovo? Ma che insolente, che arrogante questa reazione di Nicodemo, molto fastidiosa. Però Gesù proprio non si scompone per niente e gli dice questa cosa bellissima: bella, bella, bella, se uno non è nato di acqua e di spirito, non può vedere il regno di Dio. Ancora una volta, una risposta che non c'entra niente con quello che stava dicendo Nicodemo, con la logica di Nicodemo. Quando Gesù parla di queste due parole specifiche, sta dando degli insegnamenti così profondi. Io mi fermo solamente a uno per parte. Quando Gesù parla e dice: se non nasci se non nasci di acqua, non puoi vedere il regno di Dio. Quando parla di acqua, lo sta facendo per provocare ovviamente Nicodemo, perché in Ezechiele, Nicodemo conosceva questo verso, in Ezechiele 36:25 dice: spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri e vi purificherò da tutte le impurità e da tutti i vostri idoli. La parola acqua non è usata per niente a caso da parte di Gesù. Gesù sta dicendo: guarda che hai bisogno di purificarti. E il maestro Nicodemo è spiazzato, dice: da cosa dovrei purificarmi? Da che cosa ho sbagliato se io sto facendo di tutto per fare bene con la legge e con i comandamenti di Dio? E questa è una domanda che pongo anche a me stesso e anche a voi: da che cosa dovrei purificarmi? Dove sta tutto questo male che faccio? In realtà, quando parliamo di purificazione, stiamo parlando di purificazione da una cosa ben chiara che la Bibbia spiega come peccato. Ora, peccato, la parola proprio non ci piace, perché ci dice: vabbè, io ho sbagliato, gli altri sono giusti. Non è così. Qui peccato significa veramente non solo un problema di regole morali mancate, no? Di cose fatte o non fatte. Qui Gesù sta dicendo: guarda che l'errore più grande che tu stai facendo, Nicodemo, e lo dice anche a me, e lo dice a noi tutti, l'errore più grande che stai facendo è che stai rinunciando a conoscermi. Stai rinunciando a prendere una relazione con me, perché io non ti sto parlando di cose da fare e cose da non fare, io ti sto parlando di rinascita, io ti sto parlando di purificazione. Oggi ci sono queste tre persone che si immergeranno nell'acqua, e questo non è solo metaforico, no? Ha un significato molto profondo, perché stanno ricominciando. stanno ripensando alla propria vita in un modo differente. Stanno decidendo, io voglio seguire Gesù. Non voglio seguire quello che a me fa stare bene, che io capisco o non capisco. Io voglio seguire Gesù perché mi fido di Gesù. E quando poi c'è questa parola continua, Gesù, c'è bisogno che tu nasca anche di spirito. Ora, questa cosa è un po' spiazzante, perché poi investe moltissimo nello spiegare questa frase. Guarda, Nicodemo, che è importante che tu nasca di spirito, perché chiunque è nato dallo spirito è come il vento, è il verso 8, è come il vento che soffia dove vuole. E tu odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così chiunque è nato dallo Spirito. Che cosa significa questo? Ho pensato proprio al significato della parola vento. E perché Gesù la usa in questo contesto? E ho trovato un'immagine che ci spiega come funziona il vento. E ci sono delle correnti, no? C'è una pressione alta e una pressione bassa nell'aria. Quando la pressione alta va verso il basso, la pressione bassa va verso l'alto. È un principio fisico che sta dicendo che c'è un movimento che cambia, c'è qualcosa che si trasforma, e questo ci parla di qualcosa di molto bello, di equilibrato e armonioso. Il vento si forma proprio dal cambiamento di queste due pressioni, dall'alta e dalla bassa. E questo vento non ha un'origine precisa, veramente non si sa da dove viene e dove va, ma è così. E Dio vuole che tu veramente sia libero, che tu sia veramente libero profondamente nella tua vita, che tu sia libero ed equilibrato e armonioso, dove tutta la tua vita rientra in equilibrio, perché Gesù vuole essere il tuo equilibrio. Gesù vuole diventare il modo, la regola per vivere la tua vita. Perché tu ci stai provando da tanto tempo a far quadrare i conti, a mettere insieme i pezzi della tua vita, e rifai i conti e li rifai, ma la vita non quadra mai. E sai perché? Perché non sei in equilibrio, ma Gesù vuole essere il tuo equilibrio. Vuole renderti libero. Vuole che tu sia spinto dallo Spirito, proprio come il vento lo è. Proprio come il vento lo è. Non è un'immagine meravigliosa questa? È fantastico che Dio, Gesù, parli di questo a Nicodemo per provocare in lui una reazione forte. E a questo punto Nicodemo non fa neanche più domande, perché l'unica domanda che riesce a dire è: Gesù, come possono avvenire queste cose? Io non capisco più che cosa sta succedendo. Quello che mi stai dicendo che devo ricominciare, devo nascere di nuovo, che ho bisogno di purificarmi, mi stai dicendo che devo essere come il vento, come lo spirito, riempito del tuo spirito. E Gesù gli dice: guarda Nicodemo, io vorrei spiegarti tutto. E inizia un po' a fare una grande rivelazione di se stesso Gesù, perché inizia a parlare di chi lui è, che è il figlio di Dio, che è disceso dal cielo, che lui testimonia delle cose viste. Dice: ti vorrei parlare di tutto questo, ma l'unica cosa che io vorrei che tu capissi, Nicodemo, è che io sono venuto per te, e vorrei che tu non guardassi più alle cose da fare, non guardassi più a quello che è il tuo modo di pensare. Non puoi mettere Dio in una scatola e dire: l'ho capito, perché non è possibile. Però sta dicendo: una cosa ti posso spiegare bene, è che è successo molti secoli fa. Cito una storia di Mosè. C'era il popolo che periva e Mosè costruisce un bastone a forma di serpente. E questo è un simbolo di maledizione. E tutti quelli che guardavano questo serpente venivano guariti. C'era qualcosa di simile a quello che poteva e diventerà poi la vita e il ministero di Gesù. Gesù viene innalzato prendendo su di sé una maledizione, cioè il peso dei peccati per tutti noi. e chiunque guarda a quella croce riceve salvezza, riceve nuova vita, una nuova relazione, un nuovo inizio. Ora, che tu sia credente o no, che tu sia credente tanto tempo o non lo sei affatto, il mio più grande peso oggi è dirti: puoi ricominciare, perché oggi sono persone che ricominciano e testimoniano di questo, e Dio vuole che tu ricominci con Lui. Se non sai dove andare, ti trovi in una situazione dove il peso delle circostanze sta prendendo, ti sta schiacciando, sta prendendo importanza, Gesù ti sta dicendo: guarda, la cosa più logica che puoi afferrare di tutto quello che ti ho detto sono io. La logica di Dio è l'amore. La logica di Dio è Gesù. La logica di Dio è Gesù. Non c'è niente di logico nel morire per i peccati di qualcuno, ma Lui lo fa. E quella logica d'amore oggi è per te, quanto lo è stato per Nicodemo in quella conversazione, quanto quelle parole hanno raggiunto il suo cuore. E sapete, non sappiamo come questa conversazione finisca, perché non c'è un finale di questa conversazione, perché sicuramente Gesù ha messo Nicodemo davanti a una scelta, e sapremo poi più avanti nei Vangeli che scelta ha fatto. Ma questa conversazione è quella che Gesù sta facendo anche con te oggi, e ti sta dicendo: senti, non c'è da capire, prendi questo che è un dono per te, prendilo perché è per te, non c'è nessun'altra idea che tu puoi realizzare per capire questo, non c'è logica, non c'è intelligenza sufficiente, non c'è tutto quello che tu puoi immaginare o solamente pensare, no, l'unica cosa logica che puoi fare: abbraccia questo amore, abbraccia questo incontro con Gesù. E questo incontro con Gesù è qui e oggi, ed è per te. Posso chiederti di chiudere un attimo gli occhi insieme a me? Voglio pregare con te. Signore, io ti prego che in questo momento tutte le conversazioni aperte che ci sono in questo luogo, in questo posto, possano chiudersi con una decisione e possano dire: sì, Signore, io non capisco, ma voglio prendere questo amore, voglio accettarlo nella mia vita, voglio che inizi qualcosa di nuovo in me, che inizi un percorso nuovo per me, perché io non ce la faccio più, perché io non so come mettere in equilibrio le mie cose e la mia vita, ma tu Gesù lo puoi fare, tu Gesù lo puoi fare, e vogliamo affidare la nostra vita a te. Vogliamo affidare le vite di ciascuno di noi qui e soprattutto delle persone che in questo momento stanno dicendo: sì, io ho bisogno di prendere questo regalo bellissimo che sei tu. Anche se non lo capisco, lo ricevo. Anche se è più grande di me, lo ricevo. E voglio smettere di capire come far funzionare la mia vita e guardare solo te, seguire solo te, imparare da te. Nel nome di Gesù.